Senza Frontiere 26, Mugak Gabe, per l'occasione, per la seconda parte dell'intervista al collettivo, alla rivista femminista basca Picara. Ricordiamo che Senza Frontiere va in onda il lunedì alle 14.30 e in replica il mercoledì alle 17.30 e il giovedì sempre alle 14.30, e che lo potete riascoltare le puntate di Senza Frontiere, così come tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat, andando alla pagina podcast della radio, di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Al termine dell'intervista, la canzone di Picara. Senti, leggendo un po' gli ultimi articoli di Pigala, avevo letto questo del decalogo di idee per una scuola femminista, no? Che mi sa che era una cosa uscita da una parte di Commissione Obrera. Comunque era un decalogo in cui spiegavano come nella scuola d'infanzia, insomma la primaria qui, poi in Italia è un po' diverso, vabbè, diciamo dai 6 ai 12 anni, 13 anni, quali potevano essere le... appunto un decalogo, le indicazioni affinché non nascesse, non si educasse come si educa tuttora, tranne in alcuni piccolissimi casi sporadici, magari di scuole libere, non si educasse appunto i bambini e le bambine al maschilismo, ma si cercasse di vedere anche con quegli occhiali viola, no? Le gafas moradas che abbiamo detto, gafas morales che abbiamo detto prima, sì, no, scusa, perché qua i plurali sono un po' casino, ai bambini. Ecco, questo articolo è successo il finimondo e il paese, hanno scritto varie cose, tra cui uno di questi, Vargas Llosa, il simpaticissimo premio Nobel per la letteratura, che ha detto a un certo punto, ha scritto, il femminismo non dovrebbe entrare, dovrebbe stare fuori dalle scuole, ecco questo. Quindi ci spieghi un po' il significato dell'articolo, cioè, e soprattutto come mai ci sono state queste reazioni così veementi da parte di tutti gli uomini, eh? Io ho sentito solo voci di uomini contro questo articolo che fanno parte dell'apparato mediatico, insomma, Vargagliosa, sappiamo che ha fatto anche con Catalunya l'anno scorso, insomma, quali sono i motivi secondo te? Sull'educazione femminista, l'educazione in uguaglianza, per me è chiaro, siamo certi, quasi tutte le femministe abbiamo la stessa idea su questa cosa, che è un passo necessario per raggiungere l'uguaglianza e educare equamente i bambini e riconoscere le lotte femministe nei libri di storia, per introdurre profili che sono stati eliminati dalla storia, perché non è che dobbiamo inventare nuovi referenti, abbiamo questi referenti, ma sono stati spariti. Voglio dire, Mary Shelley, Marie Curie, ci sono delle tante donne che devono essere nei libri di storia a scuola e non ci stanno, che è assolutamente assurdo. E poi la reazione di Vargas Llosa, cioè, è normale, quello che aspettavo di questo uomo e poi di tanti altri, che assolutamente aspettavo questa reazione, perché sono machos e machistas e vogliono mantenere i loro privilegi ben Certo. legati, capito? È qualcosa di simile. È qualcosa come dirci alle femministe: hai già troppi diritti, ragazze, non chiedere così tanto, capito? È come avete già abbastanza, non vedi che adesso puoi avere una macchina, puoi andare a lavorare, perché ti stai Arrabbiando, lamentando, capito? Però alla scuola è chiarissimo, noi adesso allo Stato spagnolo abbiamo un enorme problema, un grandissimo problema con l'educazione a scuola, perché la violenza tra uomini e donne è nascita a questa età, sì, nasce all'adolescenza. a questa età, certo. E poi le cifre stanno dicendo che abbiamo violenza tra ragazzi di 16enne e ragazze 16enne, minorenne, capito? Certo. E hanno questi rapporti costruite sopra l'amore romantico, con queste idee sul cosa deve essere una donna, cosa deve essere un uomo, e questo qua lo dobbiamo cambiare. Se non cambiamo il seme, non cambiamo la pianta. Certo. Senti, invece un altro articolo che mi ha chiamato molto l'attenzione, no? Che la finale di Miss Universo è arrivata per la Spagna una donna, Ángela Ponce, no? Sì, Ángela Ponce, credo. Bueno, Ángela. Sì, Ángela Ponce. Sì, che è trans, è una donna, si definisce donna trans. Ci sono posizioni divergenti nell'ambito, diciamo, del femminismo, un po' l'articolo lo sottolineava, tra il fatto di dire certo lei compete però a un concorso di bellezza patriarcale e normativo, e invece altre femministe che dicono che può essere una risposta importante contro la transfobia, no, imperante che sta adesso. Ci spieghi un po' questo dibattito e soprattutto la mia domanda è, che è una domanda classica, diciamo, no? Si può lottare contro il patriarcato in questo caso in uno spazio patriarcale? Quello dipende di cosa pensi, no? A Piccola ci siamo tante, così diverse, che ognuna ha la sua opinione su questa storia qua. Certo. A me piace tanto una frase di Audre Lorde, questa femminista lesbica e afroamericana. Lei diceva che tu non puoi destruire la casa dell'amo con le sue herramienta. Cioè, non puoi distruggere la casa del padrone. Non puoi distruggere la casa dell'amo con i suoi strumenti, certo. Con le sue strumenti, capito? Quello è impossibile. A me piace tanto quella cosa che lei ha detto. Però poi, se pensiamo da una maniera pratica, tutto è patriarcato nella nostra società. Certo. Quindi credo che sia importante le lotte contro il patriarcato dagli spazi patriarcali. D'altra parte c'è il problema dell'identità, di chi considera i diritti delle persone trans. Dal mio punto di vista è fondamentale lottare per tutti i diritti di tutte le persone alle quali il patriarcato assalta le sue norme, certo, e i suoi corsetti. Le donne trans soffrono tantissimo, e il patriarcato tantissimo, come soffriamo le donne che non siamo trans, oppure di più, perché le donne trans, per quelli uomini che sono eteronormativi, sì, sono state quelle che hanno, come si dice, hanno tradito sì, tutte le norme del suo genere. Certo. E quindi la reazione contro di loro è ancora più violenta. Sì. Quindi per me sono le mie sorelle, siamo nella stessa lotta, per me. E poi, se torniamo a parlare di spazi patriarcali, se pensiamo che un centro sociale non è patriarcato, siamo un po' confusi. Perché noi siamo cresciute tutte e tutti al patriarcato, e quindi abbiamo tante cose all'interno da cambiare, che non possiamo dire no, là non lottiamo, neanche là, capito? Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Senti, questa cosa qui che avete delle idee, no? Anche spezza un po' l'idea che si può avere che in una rivista o in un periodico c'è una linea editoriale e quella si deve seguire. In realtà Picara è un esempio, come hai detto tu, di idee anche che tra di loro non sono contrastanti, no? C'è un forum di Picara che è veramente bello, io consiglio veramente a tutti e tutte di vederlo, perché è proprio interessante, non è il classico forum Barça-Madrid, per capirsi, no? In realtà ci sono dei bellissimi dibattiti che sono divergenti, no? Per esempio sulla prostituzione. È un dibattito grandissimo, che però è bello perché comunque c'è una c'è una partecipazione appunto di tanta gente comune, di tanta gente come noi, che sta lì e ha delle idee, no? E il fatto, un po' la domanda era se sia un bene che ci siano tante posizioni su tutte queste cose e se aiuta il dibattito, un po' mi hai risposto, però insomma se vuoi dire altre cose. E poi, ecco, l'altra cosa che mi chiedevo è come fate a evitare, perché un forum di internet veramente è un delirio, ma anche Facebook, no? È un delirio, tu scrivi una cosa, poi c'è di tutto e di più. Come fate a evitare che nei forum entrino maschietti che vogliono dire la loro e che quindi si accaparrano tutto lo spazio, o i famosi troll, no? E trasformino poi questo dibattito, che in realtà sono dibattiti molto belli, in qualcosa di semplice, inutile, oppure papielli lunghissimi che non si capisce niente. Ecco, come fate? Perché questa è una bella domanda. Prima di tutto, devo dire che per noi è essenziale creare spazi di confronto e arricchimento. Le posizioni stanno cambiando e sono mobili e contribuiscono tutte le idee contribuiscono sempre a fare crescere le altre idee. Le donne sono plurali, i femministi siamo plurale, le femministe sono diverse. In Picara contribuiamo con la diversità e la pluralità sempre. Il forum ha un sistema, poi mi domandai come facciamo per fare fuggire Eh le sì. ha un sistema di moderazione. Le persone danno feedback positivi oppure negativi agli utenti, agli usuari e ai loro commenti. Quindi, quando qualcuno ha voti negativi perché magari ha usato delle parole che non sono appropriate, che magari sono un'offesa per un altro, i moderatori ricevono un avviso rapidamente e puoi anche segnalare un commento direttamente per dire che non è appropriato qualcosa. E la verità è che quasi nessuno è entrato, e 5 magari in 3 anni hanno già un Twitter per sfogarsi, Sì, capito? sì, sì, sì. Prima, è vero che tanti anni prima, all'inizio da Picara, era peggio perché c'erano i commenti pieni di maschiliste che solo ci volevano dire quante brutte eravamo e Mamma mia. e queste cose bellissime. Però adesso, secondo me, l'esistenza di Twitter e questo spazio per urlare tutto quello che vogliono urlare, Certo. ci restano tranquille. Senti, parlando appunto di femminismi e di persone che qui allo Stato spagnolo sono abbastanza famose e conosciute, una di queste è Barbie Caputa. Barbie Caputa, per chi non la conoscesse, insomma, in Italia è un'attivista, blogger, militante, femminista che ha non solo un articolo settimanale o comunque quando vuole scriverlo sul diario.es, ma anche un podcast abbastanza seguito, abbastanza scaricato, per quello che so io da militante e militante. Comunque, una delle cose che stava dicendo Barbie Caputa ultimamente, la leggo perché l'ho tradotto un po', siamo lontane però siamo vicine, se l'è cavato il cioio, che è un po' la traduzione, si è finita la miniera d'oro, però qui in castigliano c'è un senso importante, se l'è cavato il cioio, no? Quando è finita qualcosa. Quest'anno, come mai ho visto nella mia militanza, sempre dice Barbie Caputa, si stanno denunciando molto più le violenze maschili e il maschilismo. È stato un anno marcato per il femminismo, non solo nello Stato spagnolo, ma in tutto il mondo. MeToo, Cuéntalo, che raccontalo, no, ni una di meno, non una di meno, le manifestazioni multitudinali dopo un episodio di violenza di genere. Tutte queste cose sono successe quest'anno. Per esempio, quando è venuta alla luce l'episodio delle donne migranti sfruttate sessualmente e lavorativamente in Huelva, o i fatti della Manada, ma non solo. Tutti i processi patriarcali, i processi maschilisti, quello di cui stava parlando prima Emi, che sono accaduti nello Stato, hanno dato ragione gli aggressori piuttosto che le aggredite. Però hanno visto mobilitazioni multitudinarie con donne come protagoniste. Un anno dove milioni di donne hanno condiviso esperienze, si sono ascoltate tra loro e si sono credute. Io ti credo, è stato uno degli slogan più visti e cantati negli ultimi mesi. Nello Stato spagnolo siamo passati da una denuncia per violenza sessuale ogni 8 ore a una ogni 5. Siamo più sveglie, siamo più vive, siamo più combattive. Siamo coscienti che le aggressioni continuano a essere più forti da tutti i punti di vista delle aggredite, ma che anche il miedo sta cambiando del bando, cioè la paura sta cambiando. Questo è un po' quello che dice lei. Voi avete la stessa sensazione? E come dicevo prima, a Piccara hanno, ognuna ha la sua visione, no? E parlando l'altro giorno abbiamo mangiato insieme per festeggiare che questo Sì. che Natale è qua. La cena di E Natale. abbiamo la cena di Natale, è stato un pranzo di Ah, il Natale. pranzo di Natale, E abbiamo parlato di questa storia, no? E ognuna ha la sua visione. Secondo me, personalmente sono felice perché credo che molte donne in quest'ultimo anno, come tu dicevi, le manifestazioni erano multitudinarie, erano piene di donne che hanno scoperto che la società li fa male a loro perché sono donne, capito? È la Sì. Certo. società, il patriarcato, voglio dire. E quindi loro hanno scoperto il femminismo come uno spazio di cura reciproca, di rivendicazione, di essere credute tutte. Quando è uscita questa storia di Cuéntalo, Sì. racconta, tante donne hanno detto: è la prima volta che io lo dico, ma sono stata violentata quando ero nell'Erasmus Amsterdam e non ho detto mai una parola, però loro hanno trovato questo spazio per dire le sue verità. Certo. E secondo me questo è importantissimo. Però ci sono delle femministe che pensano che questo qua è stata un po' fashion, capito? Un po' una moda Sì. e hanno un po' paura che questa moda finisca. Sì. Però Ok. secondo me è importante che è passata. Poi sono felice anche perché molte donne hanno capito che questo male che hanno sofferto privatamente e individualmente è pubblico, sistemico e strutturale. Sì. Non è una malattia sua soffrire perché il ragazzo gli controlla il cellulare, capito? Sì. È una cosa strutturale. E mi piace che questa che queste che siamo state così sveglie quest'anno. Il nostro ruolo di rivista continua ad essere quello di contribuire con argomenti, mettere luci negli spazi d'ombra e lavorare per una società migliore, grazie a questo giornalismo fresco, critico, rigoroso e sempre femminista, ma Certo. speriamo che non sia una moda, perché ho la sensazione che tante attrici si sono salite a questa Sì. macchina del femminismo per moda più che altro. Ah, ok. Va bene. Tipo gente, donne che dicono woman power, ma non sanno cosa c'è indietro. Ah. Capito. Senti, a proposito di questa cosa che appunto le donne stanno scendendo per strada, eccetera, dopo la morte ne abbiamo parlato prima, no? Di Laura Luelmo, questa ragazza che è stata violentata e assassinata brutalmente qualche giorno fa, purtroppo. Sono scese in piazza, io sono rimasto come ormai rimango, non mi stupisco più, ma è una cosa che succede sempre. Le donne scendono subito in piazza, no? A Huelva c'è stato subito una concentrazione, non so dalle parti vostre, però ho letto che a Huelva c'è stata subito una concentrazione sotto al comune perché le donne dicono basta, tanta rabbia, no? Tanta determinazione, tanta rabbia. Quindi non so, le donne non hanno più paura di scendere in piazza? Questa è la prima domanda. E poi ho visto anche che nei social network, no, siccome si pensava, adesso si pare che non sia così, però sappiamo che poi quando arriva, entra la stampa mainstream, diciamo, di regime, poi sulla storia di Laura Luelmo, chissà che cosa uscirà. Però sembrava che lei era andata a correre da sola e lì ha avuto, no? Come tante altre donne, compagne che vanno a correre da sole alle 7, ecco, si ha paura di correre, non si fa paura. Ho visto comunque nei social network che molte donne si stanno organizzando per andare a correre insieme. E in questi gruppi, appunto, vedi che ci sono donne di classi sociali, razze, idee politiche molto diverse. Quindi un po' se ci puoi spiegare questa cosa qui, cioè le donne non hanno più paura di scendere in piazza e si vede, e poi il femminismo o comunque questa rabbia, ecco, diciamo, se non la vogliamo definire totalmente, che sta unendo trasversalmente anche la questione di classe, razza, idee politiche, come la vedi questa roba? Io credo che sì, sta unendo trasversalmente e penso che poi la copertura mediatica di casi come quello di Laura Luelmo causino paura alle donne, assolutamente. Noemí López Trujillo è una giornalista di El País e ha scritto questa settimana un articolo molto interessante che diceva che ogni generazione ha il suo capruccetto rosso. Sì, è Capito? vero. Sì. È un modo per dire alle donne come comportarsi e quali sono le punizioni dei lupi Sì. per trasgredire norme sociali non scritte per loro, uscire di notte, fare l'autostop e in definitiva essere liberi. E Certo. questo negli ultimi giorni ci sono stati eventi come andare a fare jogging insieme, che è più, secondo me, una protesta che una strategia. È Certo. più visibilizzarsi di fronte alla società, dire no, non ne ho bisogno di protezione, ne ho bisogno di una società senza assassini maschilisti, capito? Certo. E per quanto riguarda le strategie, abbiamo parlato questi ultimi giorni da quando è successa questa terribile storia a Laura Luelmo, e tra le amiche parliamo e diciamo sempre abbiamo avuto queste strategie quando torniamo da sole a casa. Chiamiamo telefonicamente per essere accompagnate, mettiamo le chiavi come un pugno americano tra le dita e pratichiamo autodifesa femminista. Ora nei consigli comunali stessi creano regolamenti affinché gli autobus effettuino Sì, effettuino, fermate effettuino, però è complicato. intermedie che diano maggiore sicurezza alle donne. Certo. Ma tutto questo non funziona se questa società non smantella il patriarcato, né educa nell'uguaglianza dalla culla. Certo. Non aiuta, voglio dire, cosa c'entra se io faccio questa autodifesa femminista, se io metto le chiavi, magari non sono ammazzata, ma sono violentata, ma sono picchiata, che ne so. Certo. E poi funziona? Se questa società smantella questo patriarcato, educa nell'eguaglianza della culla, non aiuta se continuiamo a costruire una mascolinità egemonica che considera le donne come corpi disponibili. Sì. Quello è il problema. Secondo me il centro di tutto è quello. E per me il femminismo adesso è diventato molto più plurale che prima, molto più aperto. Sì. Siamo tante, le ricche, le bianche, le migranti, le donne migrate, che siamo occhi aperti, vedendo come queste cose passano. Certo. Però abbiamo bisogno che tutta la società si renda conto. Sì, assolutamente sì. Io, questa è una mia impressione. Da un po' di anni a questa parte, poi quest'anno secondo me è stato proprio quello che mi dà un po' più ragione, non so se lo posso dire in pubblico. Il femminismo stia marcando l'agenda politica, tanto istituzionale come quella dei movimenti sociali in questo stato. Istituzionale, per esempio, perché Vox, questo partito neofranchista che è uscito in Andalusia e che fa nella sua campagna elettorale e nelle ultime dichiarazioni dicono insomma che la legge sulla violenza di genere o è esagerata e va cambiata, per esempio. E le prime a scendere in piazza sono state proprio le donne il giorno dopo, anzi ore dopo, per denunciare il malestare, il rifiuto contro questo partito. Non solo, diciamo. E le posizioni femministe anche si vengono prese poi da partiti appunto come il Partito Socialista, no? Che dice assolutamente no, la legge contro la violenza di genere non si deve toccare. E quindi secondo me il femminismo sta marcando un po' l'agenda politica istituzionale e anche quella dei movimenti sociali, perché almeno parlo della realtà di Valencia e di Barcellona, che conosco un po' meglio, nei centri sociali, nelle assemblee di quartiere, nei collettivi, si stanno comunque o si stanno facendo o ci sono già dei protocolli di intervenzione contro le violenze maschiliste nei nostri posti, no? Aspetti che prima, sinceramente, o almeno per la mia esperienza, non è che venivano considerati tanto importanti. Spesso, almeno io, non è che sono tanto grande, però si sentiva dire nei centri sociali sempre da parte di maschietti, eh. Prima la rivoluzione, e poi il femminismo, e poi Ancora, ancora si può sentire quando questo. arriveremo alla nostra società, poi parleremo di queste cose. Invece, secondo me, si sta cambiando molto questo aspetto. Voi che cosa pensate rispetto a questo? E come mai è successo tutto questo negli ultimi anni? Io credo che siamo avanzati, credo che quando dico avanzati voglio dire che all'interno dei movimenti sociali sono state queste voci critiche che assumono il suo maschilismo e lo vogliono cambiare. Però una parte della sinistra sta cominciando a prendere atto e ad integrare la prospettiva di genere all'interno dei suoi partiti, anche se è molto difficile analizzare il maschilismo di tutti quegli spazi perché è molto interiorizzato e integrato nelle persone, però sì, penso che ci sono delle uomini e poi dei movimenti sociali che stanno cercando di cambiare questi comportamenti. Dall'altra parte, reazioni come Vox non sono nuove, solo ora sono supportate da una parte specifica e sono al Parlamento. Certo. Le stupidità incolte e reazionarie che sputano da quel partito le abbiamo già sentito migliaia di volte nei bar, capito? Sì. Ora la reazione è più virulenta perché abbiamo davvero avanzato dal femminismo, abbiamo avanzato molto e il femminismo si sta diffondendo e quello a cui ha i privilegi lo spaventa. Ma guarda che da un'altra parte, quando ti dico che penso che sì, che i movimenti sociali si stanno rendendo conto che devono fare una rivoluzione femminista, se no non ci sarà rivoluzione. Da un'altra parte, il giorno dopo le elezioni in Andalusia, tutte le femministe abbiamo sofferto questi attacchi da compagni della sinistra dicendo che era la nostra colpa perché le femministe sono state così radicali questi anni che abbiamo fatto arrabbiare alla diritta. E questo è così. Se tu guardi su Twitter a Barbie Caputa e tutti i commentari che ha sotto, c'è tanta gente dei movimenti sociali di sinistra che stanno dicendo è colpa vostra delle femministe che la diritta ha vinto nuove Escaños, Andalusia, che quello mi fa spaventare assolutamente. Dico, quindi dovevo essere zitta, dovevo non lottare per i nostri diritti, per non fare arrabbiare Certo, no, infatti. ai fascisti. Sì. Beh, è assurdo assolutamente, ma guarda che gli hanno detto, eh. Non mi sorprende, però vabbè. Non mi sorprende assolutamente. Senti, parlando un po' di Vox, che pensate di questo partito? Un po' mi hai risposto, no? Però per entrare, perché sono così arrabbiati contro il femminismo? A me sembrano proprio arrabbiati col femminismo questi qua. Sì, assolutamente arrabbiati. Boxeranno nei bar, come ti dicevo prima, Sì. e ora sarà in Parlamento. Certo. Voglio dire, prima tu sentivi questo alla cena di Natale, al bar oppure nella strada. Adesso queste menzogne le vai a ascoltare al Parlamento. Hanno usato menzogne, che tu lo sai, che si ripetono mille A volte e voglia, a voglia. diventano verità. Sì, a voglia. Per convincere una parte della popolazione che si sente a disagio con il progresso delle donne nello spazio pubblico e prima dei cambiamenti degli ordini aspetta, del fine dei valori Sì, tradizionali. sì, sì, sì. Loro sono arrabbiati perché l'avanzamento delle donne per loro è il fine dei valori tradizionali. E Certo. quello è la reazione del patriarcato che si contorce mentre muore, Bella secondo te. questa Non mi ha immagine. sorpreso, non mi ha sorpreso assolutamente. Hanno insultato le femministe nelle reti per anni e ora sono rappresentate. È pericoloso che siano vicine alle istituzioni quelli che sono misogini, però che anche sono razzisti, xenofobi, omofobici. Ma mi piacerebbe pensare che le loro bugie populiste abbiano gambe molto corte e una distanza corta. Capito? Voglio pensare che dopo 4 anni questa cosa qua muore. Continua, dall'interno del femminismo continuiamo a lavorare, ma questo qua è un fenomeno che dovrebbe essere analizzato lentamente, questo di Vox, perché ci sono altre cose che hanno fatto arrabbiare. L'uso della bandiera dal Partito Popolare è stato un uso irresponsabile della bandiera, hanno fatto uso dei sentimenti molto legati a quello interno, a quello emozionale. Sì, la Spagna una, no? Spagna una, quello, è quello. Spagna è stata distrutta, secondo loro, perché Catalogna ha voglia di fare una votazione, un referendum sulla sua autonomia, no? Certo. Quindi quello unito al fatto che loro sono molto arrabbiati perché le donne non ci lasciamo più picchiare, sì. Perché guarda che loro vogliono finire, vogliono togliere la nostra lei contro le violenze maschiliste. Sì, contro la violenza di genere, certo. Quindi è assurdo, ma e questo qua dovrebbe essere analizzato lentamente, perché dobbiamo fare qualcosa come società. Uno paese che è stato più di 40 anni sotto le gambe di un fascista, sì, non può tornare indietro. No. Speriamo di no. No, speriamo. Senti, nei movimenti sociali si sta facendo abbastanza rispetto al femminismo? Tu che pensi su questi protocolli di cui parlavamo prima? Penso che ci vuole protocolli, vuol dire all'interno dei movimenti sociali? Sì, trovare protocolli nel movimento sociale, cioè quando nel momento in cui c'è una violenza di genere e una compagna denuncia il fatto che ci sia stata violenza di genere, dei protocolli d'attuazione, no? Che si deve fare in questi casi rispetto a... E quindi si cerca in tutti e tutte di trovare una soluzione e scriverla, insomma, questo è un po'... Sì, credo che siano molto importanti avere questi protocolli per attuare rapidamente, prima all'ospedale, poi la ragazza che ha sofferto questa aggressione. Sto parlando dell'ospedale pensando che sia una cosa grandissima, ma questi protocolli devono essere scritti anche per altri abusi, capito? Altre cose che capitano all'interno dei movimenti sociali e che tante volte restano... oscure, capito? Non si dicono mai. Sì, assolutamente sì. Senti, due ultime domande. Io qui in Stato spagnolo ho imparato la parola cures in catalano, che significa prendersi cura delle persone, prendersi cura degli altri, delle altre. E questo concetto nelle assemblee e nella vita quotidiana. Ce la spieghi un po' questa questione così centrale nel femminismo adesso? Io credo che la cura reciproca sia una parte fondamentale del femminismo. Alle donne è stato insegnato a competere tra di noi, sì, in molti aspetti della vita. Ci è stato detto che eravamo nemiche, che eravamo sibilline, che possiamo sibiline, essere molto cattive e dannose, che una donna è cattiva per natura, mentre gli uomini sono di buon cuore ma fisicamente più forti. Questi dietro tutti quei miti, sì, se il patriarcato è una struttura, situazione sociale che si adatta a loro per mantenersi. Sì. Una trasgressione è cagare tutti quei miti e prendersi cura le una delle altre, non essere mai nemici, certo, sostenersi a vicenda. proteggersi, coccolarci, essere vicine ed essere sorelle nella lotta e nella vita. È un'enorme trasgressione dal mio punto di vista. In Pigara si prendono cura reciproca sempre. E sto lavorando io, sto lavorando in un altro media, in TV, con un ambiente molto diverso a quello che si respira alla redazione, al luogo dove Pigara lavora. Certo. E quando avevo bisogno dell'amore, le ragazze di Pigara sono sempre lì, capito? Se tu hai detto sto scrivendo questo articolo, domani lo spedisco. E arriva il giorno dopo e tu stai con la febbre. Ragazze, non ce la faccio a farci arrivare, a A farvi finire questo arrivare articolo, questo certo. articolo. E loro dicono: non c'è problema, la prima cosa sei tu, capito? Sì. Questo non capita No, altre posti, assolutamente. altri posti. Assolutamente. Senti, faccio l'ultima domanda e poi ti saluto che ne stiamo parlando da un bel po'. Tutto interessantissimo, credo che sarà interessante per le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori sicuramente, anzi. Senti, qui si parla molto, no, di uomini femministi, si parlava tanti anni fa quando io ho cominciato a fare politica, dopodiché abbiamo capito che questo termine non possiamo utilizzarlo e ci si definisce alleati del femminismo. Che cosa ne pensate di questo te, di questa cosa e cosa possono fare gli alleati del femminismo, gli uomini? Qui ognuna a Pichera abbiamo la nostra visione, no? Non Certo. siamo una rivista, te l'ho già Sì, detto, sì, sì, sì. una sola opinione. Definiamo la diversità assoluta, voglio dire. Ti do la mia opinione. Sì. A me piace quando gli uomini si sentono alleati e anche quando partecipano. Loro lottano contro il suo machismo, è una cosa dura anche. E anche io faccio una lotta costante contro il mio, perché alla nostra generazione ci hanno fatto vedere che eravamo tutte principesse. Mi piace che vengano alle dimostrazioni, Manifestazioni. condividano, manifestazioni, condividano i nostri articoli nelle reti e mostrino ad altri uomini che il femminismo non deve dare paura, che non mordiamo. Che è buono per tutti e per tutte. Io sono sposata con un uomo che lui si fa chiamare femminista, lui si vuole essere femminista e lotta ogni giorno per tutto quello che ha imparato nella sua vita e che gli ha fatto essere chi è, capito? Certo, Come io. capito perfettamente. Se vuoi aggiungere qualcos'altro, non so se perché io faccio domande, ma magari vuoi dire qualcosa della rivista che abbiamo Siamo su lasciato. Sì, www.picaramagazine.com perfetto. e scusa per il mio No, italiano no, perché è no, guarda che è molto stato nuovo. perfettamente, anzi. È molto peggiorato in questi ultimi anni, però cercherò di parlarne bene Bene, la prossima volta. ok. Noi ti ringraziamo tanto e ci sentiamo presto e buona lotta. Grazie a voi. Pícara, pícara viene, es la revista de todas las mujeres. Pícara, pícara, tú míralo, o si prefieres también cántalo. Pícara ofrece el horóscopo diario, también las compras que se puede hacer en tu barrio. O si tú quieres, de grana y oro, puedes leer un buen artículo de toro. Pícara, pícara, pícara viene, es la revista que gusta y entretiene. Pícara, pícara, tú míralo. O si prefieres también cántalo. Pícara tiene tremendas entrevistas. Nunca llamaríamos a la porno terrorista. Me gusta Epe y calla el don, porque el PP no mola mogollón. Pícara, pícara, pícara viene en la revista de todas las mujeres. Pícara, pícara, tú míralo. O si prefieres tú también cántalo. Nuestra sesión de ética cristiana evita aborto toda la semana. Esto está hecho con amor y premura, como me gusta el ministro de Cultura. Pícara, pícara, pícara viene, es la revista que gusta y entretiene. Pícara, pícara, tú míralo, o si prefieres también cántalo.